1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Alle 7:18 minuti siamo ancora qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori, pronto a leggere i giornali con voi. Vi ricordo anche gli ospiti di oggi: avremo ospite Cécile Kyenge alle 8:15, l'ex ministro andrà in Nigeria tra poco per l'Europa per affrontare il problema Boko Haram, l'ISIS. E poi avremo ospite questo, qualcuno dice, strano vincitore alle primarie di Agrigento, no? Le primarie del PD. Silvio Alessi, imprenditore, che molti dicono è più di centrodestra. La maggior parte dei titoli è oggi Forza Italia vince le primarie del PD. Ma insomma, questo Silvio Alessi, che ha vinto le primarie del centro-sinistra come sindaco Agrigento, è di centrosinistra o è di centrodestra? Non lo so, lo scopriremo. Ci aiuterà a scoprirlo anche Vincino, che sarà con noi, il nostro amico Vincino, alle 8:40. Ora andiamo a leggere i giornali. È martedì 24 marzo, i titoli intanto. Il Sole 24 Ore apre su l'OPA Pirelli, il patto tra soci per ridurre il peso dei cinesi. E su questo anche il Corriere della Sera, un'intervista che vedremo a Marco Tronchetti Provera. Basta nazionalismo di maniera, il titolo del Corriere in prima pagina, anche se il titolo principale è su Renzi, che ieri ha parlato alla Luis, e il titolo è Non c'è deriva autoritaria, l'affondo di Renzi. E poi l'accordo, o meglio il trattato tra le trattative tra Grecia e Germania. Per Repubblica, tregua Merkel-Tsipras, Schulz, patto in 7 giorni se Atene abbassa i toni. Per la stampa, Merkel-Tsipras, primi passi verso un'intesa, anche il manifesto, la caduta del muro. C'è questa foto della stretta di mano tra Merkel e Tsipras, come se fosse chissà cosa. Si sono stretti la mano. Comunque, il bancomat dei partiti è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Cosa pubblica? Tutti i soldi, cifra per cifra, dei RAS del cemento versati ai partiti in questi anni. Tutto regolare, eh? Mentre eccolo qua, e da qui voglio partire, no, il dibattitone all'italiana, basta che un ministro come Poletti dica 3 mesi di vacanze sono troppi, eccolo, per gli studenti, eh. Il Messaggero, scuola, vacanze da tagliare, il Giornale, Renzi taglia le vacanze, il Giorno, scuola, vacanze sotto tiro, e il dibattitone all'italiana che si svolge con i canoni soliti, continui, consueti. Allora, cosa ha detto Poletti intanto? Poletti in un convegno ha detto 1 mese di pausa per gli studenti va bene, ma non c'è un obbligo di farne 3, magari uno potrebbe essere passato a fare formazione. I miei figli d'estate sono sempre andati al magazzino della frutta a spostare le casse e sono venuti su normali, non sono speciali. Comunque la discussione va affrontata. Ecco, apriti cielo, il dibattito prevede i classici giornalisti che dicono, stile Beppe Severgnini sul Corriere, non toccateci l'estate dove le giornate si allungano, i tramonti profumano, i nervi si distendono, non i miei, i nervi si distendono. Oppure Gramellini in prima pagina della Stampa, non toccate l'estate, l'estate... le mie estati fancazziste, le ricordo popolate di incontri, tempi morti, incertezze e angoscia. Poi c'è la psicologa, ovviamente, la psicologa che parla sul Giorno. Non è tempo sprecato la noia. Poi ci sono ovviamente quelli del mondo della scuola che dicono chi è giusto, chi è sbagliato. Chi ricorda che la legge già prevede lo studio durante i mesi di vacanza. E chi dice che invece si potrebbe ragionare? E poi c'è Cacciari che giustamente sul Fatto Quotidiano fa un'intervista e dice: ma il ministro Poletti con le ferie dei ragazzi che cosa c'entra? E vabbè, Cacciari parte da qui e poi accusa. Ma il ragionamento dietro questa crociata contro le vacanze cosa sarebbe, professor Cacciari, secondo lei? Gli chiede Tommaso Rodano. Ma c'è un'idea trogloditica che la produttività di una persona si misuri sul tempo di lavoro. Ce l'aveva anche Brunetta questa idea quando se la prendeva coi dipendenti pubblici perché non timbravano. In un'epoca in cui, grazie allo sviluppo tecnologico, il 90% del lavoro potrebbe essere utilmente svolto a casa, questi arcaici predicatori vanno in giro a dire che bisogna stare più tempo a scuola o in ufficio. Questo il professor Cacciari. Insomma, il classico dibattito all'italiana che non sposterà di un millimetro il discorso, poi al prossimo ministro tra 6 mesi dirà ma forse le vacanze 3 mesi e poi si va avanti così. Tra 2 giorni di questo dibattito non rimarrà più nulla. Il mio consiglio è comunque, cari studenti, lavorate, lavorate finché siete a scuola, che per la disoccupazione poi c'è tempo appena la finite la scuola. Va bene, questo tema comunque lo mettiamo lì, tanto tra 3 mesi spunterà con le solite questioni. Allora, a proposito di vitalizi, sapete che di vitalizi per i condannati ce ne siamo occupati anche noi. Non si muove nulla della discussione Camera e Senato per capire se abolire il vitalizio almeno ai condannati. Oggi Nello Trocchia sul Fatto Quotidiano, a pagina 7, racconta il vitalizio eterno di Bonsignore e Company. Bonsignore è Vito Bonsignore, che tra l'altro è rispuntato nelle intercettazioni di recente e che è preso a pretesto come uno di coloro che prende il vitalizio e ha, scrive il Fatto Quotidiano, in passato una condanna. Il vitalizio eterno, condannati a ricevere pensioni statali. Il Parlamento non riesce a eliminare neppure questo privilegio per chi ha nel suo passato una pena passata in giudicato. Si racconta di Luigi Grillo, associazione per delinquere e turbativa d'asta, ha patteggiato, prende 6.930 euro. Antonio Del Pennino, che ha un finanziamento illecito, patteggiato, e una prescrizione per corruzione, prende 6.930 euro, ma anche Giuseppe Ciarrapico, Tony Negri, beh, ricordate il mitico Tony Negri, 2.107 euro, una condanna per banda armata, 2.381 euro per Rocco Salini, Giorgio Calvagno, Vito Bonsignore, per l'appunto il Fatto Quotidiano li mette tutti a pagina 7 per dire perché non riusciamo a costoro a togliere il vitalizio. Si vedrà se si riuscirà. Intanto voglio saltare sul Corriere della Sera, dove la Procura di Milano si scaglia contro Apple. L'accusa di quelle pesanti, ha evaso 880 milioni di euro. Così scrive Luigi Ferrarella, pagina 24, quasi 880 milioni di euro di evasione dell'imposta sul reddito delle società, l'IRES, in 5 anni. Nel caso di Apple, la Procura di Milano gioca la carta del tutto niente, spara altissimo nel contestare la supposta dimensione della gigantesca omessa dichiarazione dei redditi che il pool economico diretto da Francesco Greco prova ad addebitare all'operation manager in Irlanda della Apple Sales International, vale a dire Michael Thomas O'Sullivan, ma addebita tutto questo anche al legale rappresentante di Apple Italia Enzo Biagini e al direttore finanziario Mauro Cardaio. Alla fine degli accertamenti, avviati con una perquisizione nel 2013, i PM cambiano l'impostazione dell'indagine e chiedono appunto questa evasione da 880 milioni di euro. Beh, la cifra è notevole, scrive il Corriere della Sera, e vedremo come andrà a finire. Ma questa veramente è una notizia che mi fa stringere il cuore e che trovate a pagina 23 della Stampa, e che oltre a farmi stringere il cuore mi fa anche tenere le mani strettissime sul volante. Se fossi alla guida, verrebbe da stringere il microfono. E voi, ecco, lo sposto anche. Non sono rumori molesti, state tranquilli. E voi, ovviamente, se avete il caffè bollente, appoggiatelo un attimo. Succede questo. Racconta Giuseppe Salvaggiulo sulla Stampa. Succede che c'è una squadra, si chiama Coa Bosco, gioca in terza categoria in Calabria. È una squadra formata dagli immigrati, è stata messa in piedi da un prete, Don Meduri. Che succede a questa squadra di Rosarno? Scende in campo E succede questo. Prima le parole, sporchi negri, tornate al vostro paese, ci rubate il lavoro. Poi dovevate affondare coi barconi. Poi le pietre, l'assedio degli spogliatoi, l'arbitro che sospende la partita. La vicenda accade a Paravati, provincia di Vibo Valentia. La Vigor affronta gli immigrati della Coa Bosco e iniziano gli insulti. Prima due o tre persone. Negri di merda, i sassi, dovevate morire, dovevate affondare. I nostri ragazzi reagiscono, dice Don Meduri. Uno viene espulso, si accende una rissa, partono le pietre, la gente che scavalca la rete invadendo il campo, l'arbitro, che tra l'altro aveva 17 anni, quindi pensate, poveraccio, che sospende la partita, finisce con una scazzottata e l'assedio negli spogliatoi. Vi aspettiamo fuori, se non tornate ai vostri paesi vi ammazziamo. In campo i calciatori immigrati di Rosarno, dovevate affondare. La partita è sospesa. Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Shh, fate silenzio. Adesso c'è Alessandro Milan. Va bene. Sì, va benissimo, cari ascoltatori. Grazie. Grazie. Va bene. Adesso però alziamo un po' il tono, perché allora Renzi ha parlato ieri all'Università Luiss, ha parlato e ha dato sfoggio di quello che è un po' il renzismo, no? Ha risposto soprattutto alle accuse di una deriva autoritaria, di essere un po' un dittatore che decide tutto, ma ha risposto così: non sono un dittatore, chi non decide crea la palude e tradisce la democrazia. Renzi chiude alla minoranza, così secondo Repubblica, con questo discorso da Luiss, la cui lettura da Repubblica appunto viene data come una lettura anche alla minoranza del suo partito. Mentre guardate il Messaggero, pagina 6, il premier e l'elogio del decisionismo. Basta vetocrazia o vince la palude, racconta Mario Aiello sul Messaggero. Professoroni, professorini, grandi piccole star da convegni della sinistra eternamente insoddisfatte, più i soliti gufi della minoranza PD, tutti a dire che Renzi è come Putin, che ha una deriva autoritaria, che la democrazia modello Matteo non è una democrazia ma un sottoprodotto, una democratura. Intellettualismi, secondo il premier, anzi pregiudizi da gufi. Deriva autoritaria è il nome che alcuni professori un po' stanchi dovrebbero dare alla loro pigrizia, risponde il premier. Ce l'ha coi tipi alla Zagrebelsky, alla Rodotà, il capo del governo, che si ritiene più un uomo del fare che dello speculare. Siamo il 28esimo governo su 63 per durata, dice Renzi, e siamo solo all'inizio del nostro mandato. Siamo già in Europa League, ma questo non è un buon motivo per smettere. Vabbè, lui usa spesso metafore calcistiche, no? Per chi non è avvezzo al calcio, in Europa League vuol dire siamo già al quarto quinto posto, ma ambiamo a diventare anche ad andare più avanti. Autoritario io in un sistema democratico, chi è legittimato a decidere o lo fa o consegna il paese alla palude. Questa non si chiama dittatura ma democrazia, altrimenti siamo al tradimento della democrazia. Vabbè, Renzi poi ha parlato di tutto. Il titolo del Corriere mi ha un po' colpito. Renzi, mezza Europa ci copierà l'Italicum. Sì, lo ha detto quando faremo la legge elettorale in terza e ultima lettura. Mezza Europa, state certi, ce la copierà. Ecco perché io dico, siamo alla 99esima settimana decisiva per la riforma elettorale, ma bisogna prendere tutto il tempo che necessita, perché bisogna farla bene, evidentemente, se mezza Europa ce la deve copiare. Al di là del discorso, ieri è stata una giornata in cui Renzi è andato da Mattarella. Ha incontrato il capo dello Stato. Al centro dell'incontro c'era la successione del ministro Lupi. Cosa è successo? Che, come raccontano tutti i giornali, Marzio Breda, a pagina 5 del Corriere della Sera, il Quirinale dice no alla divisione del ministero, è contro la legge Bassanini. Questo voleva Renzi, una sorta di spacchettamento, e Palazzo Chigi aveva ipotizzato di tenere per sé l'unità di missione del Ministero delle Infrastrutture. È la struttura a cui spettano le scivolose decisioni sugli appalti per le opere pubbliche, grandi e meno grandi. Questa proposta però è stata cassata, cioè bocciata dal Quirinale. perché il Quirinale ha fatto presente che ogni possibilità di scorporo del ministero o di delega si scontrerebbe con la legge Bassanini, un ostacolo che bisognerebbe aggirare in corsa con un provvedimento ad hoc che cambi il numero prefissato di dicasteri, cioè di ministeri, ciò che sarebbe in concreto per il Presidente della Repubblica irrealizzabile. E dunque un primo no a questa ipotesi. Che succederà allora? Secondo il retroscena di Repubblica, Goffredo De Marchis e Umberto Rosso, ci sarà un interim di Renzi, forse addirittura fino all'Expo, dunque per un paio di mesi. È difficile che gli succeda Del Rio, che Del Rio succeda a Lupi, impossibile che sia Andrea Guerra, sia per la volontà di affermare il primato della politica sui tecnici, sia per il cortese rifiuto dell'interessato che dice non voglio fare il ministro, questo almeno dice Repubblica, e dunque sarà un politico. Non sarà però, secondo Renzi, uno dell'NCD, cioè via Lupi dell'NCD, non vuole mettere un altro dell'NCD, vuole mettere un politico, ma non dello stesso partito di Alfano e compagni. Staremo a vedere, questo dal punto di vista politico. A proposito della corruzione presunta, degli appalti, eccetera, oggi in un'intervista di due pagine su Repubblica parla il presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci. L'ANAS, che è citata 75 volte in queste pagine, chiede Corrado Zunino di Repubblica, e chiede a Ciucci: non è che è tornato l'epoca dei Tangentanas, il 92, Forlani, Prandini? Ciucci dice: no, questa azienda non ha niente a che fare con le tangenti, ci sono solo telefonate intercettate. Mi scusi, ma c'è un tale Salvatore Adorisio che parla di mazzette, a gogo. Non conosco questo signor Adorisio, certamente lo querelerò. La sua società l'ho scoperta in questi giorni leggendo i giornali. Però insiste Repubblica, scusi, si parla per esempio di mazzette nel caso del viadotto crollato ad Agrigento. Risponde il presidente dell'ANAS: il collaudo per quella parte di strada, il rilevato, non è richiesto. Sul resto del viadotto i carichi avevano dato esito positivo. Non si può parlare di lavori finiti in anticipo. La porcata la fa questo signor Adorisio, che dice una cosa senza provarla, e quindi lo querelerò. Così il presidente dell'ANAS si difende da tutte le accuse. Vabbè, intanto il Fatto Quotidiano cosa fa? Il Fatto Quotidiano mette a pagina 2 e 3, e per la verità anche l'apertura di prima pagina, tutto l'elenco dei finanziamenti dei costruttori in questi anni alla politica, tutti i finanziamenti leciti, però è chiaro che il sottotesto Giorgio Meletti e Carlo Teccia, pagina 2 e 3, è questo, tanto che guardate un po' come viene dipinto in alcuni casi. Quello che fanno i costruttori in Navarra, noti e stimati soprattutto a Roma, hanno unto con 30.000 euro le ruote del deputato pugliese Nicola Latorre. Ma cosa vuol dire unto? Cioè, se sono finanziamenti regolari, mettere questo verbo, insomma, è un po' come dire tendenzioso. Comunque, soldi, partiti, grandi opere, scorrendo l'elenco dei finanziamenti pubblici alla politica si scoprono affari e posizionamenti dei signori del mattone nazionale, con qualche sorpresa. Tutte quelle che sono, le trovate, sono molto dettagliate, sono due pagine fitte, i finanziamenti, ripeto, pubblici e leciti dei costruttori alla politica. E le trovate sul Fatto Quotidiano a pagina 2 e 3. Beh, vi segnalo invece che il Sole 24 Ore parla molto di Pirelli, perché sapete che ChemChina, cioè i cinesi, sono entrati soci di maggioranza in Pirelli, e tra poco lo vedremo sul Sole 24 Ore. Vi segnalo che su questo tema c'è un'intervista a Marco Tronchetti Provera sul Corriere della Sera. Federico De Rosa lo intervista, pagina 3, ChemChina renderà Pirelli globale, dice Tronchetti Provera. Cuore e testa dell'azienda resteranno comunque in Italia. Questa è un'operazione che rende Pirelli più forte, ne ribadisce il radicamento, rafforza il ruolo del management. Non ha molto senso in questo caso invocare interventi di fonti pubblici per garantire l'italianità. Uomini, tecnologie e sede in Italia sono garantiti dagli accordi, e il partner cinese ci rafforza in un mercato enorme. Alla domanda di Federico De Rosa sui sindacati che dicono che se in Italia ci fosse stata una politica industriale Pirelli non avrebbe scelto un partner cinese, risponde Tronchetti dicendo: mi preoccupano certi sussulti che sanno di antico. La vera politica industriale si fa creando le condizioni per attrarre investimenti che creano posti di lavoro. Se guardo fuori dall'Italia vedo che le case automobilistiche vanno a produrre in Gran Bretagna, Germania, Spagna. Solo ultimamente, per fortuna, Fiat Chrysler ha ripreso a creare posti di lavoro. Perché queste difficoltà in Italia? La risposta non può essere certo un nazionalismo di maniera che parla in modo superficiale di politica industriale. In Italia, in verità, è mancato un progetto per il futuro dell'industria. Così Tronchetti Provera, che poi parla di altro, ma proprio sul Sole Antonello Olivieri, e chiedo lumi ovviamente al nostro Mauro Meazza, spiega in realtà quali sono tutti i dettagli del contratto che poi riducono di fatto il peso cinese su Pirelli. O no, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Sì, è proprio così, nelle pagine che dedichiamo tra la vicenda appunto Pirelli Chem China c'è anche questo contributo a firma di Antonella Olivieri che spiega come c'è un percorso previsto per cui ChemChina andrebbe poi calerebbe al 50,1%. È una cosa che adesso è difficile di assumere in 30 secondi, ma il senso è che se l'offerta pubblica d'acquisto avesse un successo totale, allora Pechino andrebbe fino al 65%, ma ci sono dei patti parasociali appunto che ne ridurrebbero il peso al 50,1, quindi appena sopra la soglia di maggioranza. Questo, tutti i dettagli, anche le questioni più complessive che riguardano gli pneumatici e i vari soggetti che operano, alcuni anche molto più grossi di Pirelli, ma Pirelli con questo particolare accordo punta chiaramente a scalare la classifica, diversamente come stanno facendo le nostre squadre calcistiche di riferimento. Ma vabbè, qualcosa che non mi dà fastidio. Classifica forse non dobbiamo dirlo giorni, però la classifica invece dei produttori la trovi sempre oggi sul Sole 24 Ore. Segnati domani ti diamo la guida alla voluntary disclosure, ma si può anche dire rientro dei capitali, i tuoi due eurini che dovresti riportare, dovresti cortesemente riportare in chiaro. Sai che quando vado in giro le poche persone che mi riconoscono mi dicono: mani sul volante, e poi i due urini ce li hai. Due urini oramai sono diventati un simbolo. Patrimonio pubblico praticamente. Il Presidente del Consiglio ancora non ne ha parlato, ma potrebbe presto citarli anche nei suoi discorsi. Poi ti voglio dire, segnati sul calendario martedì 31 marzo, oltre alla giornata di domani con il Sole 24 Ore, la guida alla volontà di martedì 31, perché succedono due cose. Allora, scade il termine per le trattative sui bancari. Ne parliamo anche oggi, parliamo spesso di questo contratto che è abbastanza difficile, questa trattativa molto difficile. Il 31 marzo è il termine che le parti si sono date per trovare una composizione. Speriamo che questo accada, trovi i dettagli nelle pagine di Imprese e Territori. E poi il 31 marzo, tu sai che le province le stiamo abolendo, così, usiamo un gerundio, non ci sbilanciamo, usiamo un gerundio. Ecco, però bisognerebbe il 31 marzo decidere che si fa del personale che è ancora attribuito alle province, ma stiamo vedendo se riusciamo a farlo. Vabbè, oltre a questo, è sempre in tema di banche, c'è stato il governatore della Banca d'Italia che auspica un intervento dello Stato sulle sofferenze bancarie, lo trovi nelle pagine di Finanza di oggi sul Sole 24 Ore. E poi ti voglio segnalare una vicenda curiosa: un signore ha pagato una rata di un'imposta in anticipo e il risultato è che si è beccato una multa. Ecco. Così impara a pagare prima. Come si diceva una volta, pagare e lasciare morire. Questo mondo, c'è sempre tempo. E lui probabilmente non si è tenuto a questo vecchio adagio. Lo trovi, indovina un po', in quali pagine? Su Norme Tributi. Bravissimo, dove oggi, essendo oggi è martedì? Sì. Ok, ieri era lunedì, oggi è martedì. Spesso succede, ecco, nelle pagine Norme Tributi, essendo martedì, trovi anche gli articoli dedicati al, dillo tu, condominio. Bravissimo, sei molto preparato questa mattina, Alessandro, me ne compiaccio. Traffico! Alessandro Milan, Ma che cazzo? Ma chi è sto genio? Ma chi è questo genio? Vabbè, vorrei conoscerti e stringerti la mano. Caro genio, ti ringrazio, mandate le vostre siglette. Ah, ovviamente, poi ritrovate tutto sul sito di radio24.it, che è tutto rinnovato. Andate nella sezione 24 mattino del nostro programma, troverete gli extra, troverete le siglette, troverete le foto, trovate le forchielliadi, trovate tantissime cose per sbizzarrirvi, così ci rompete meno i maroni con le mail. No, scherzo, sapete che io sono così, bastone e carota. Allora, cari ascoltatori, vi segnalo un'intervista al capo dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, intervistata da Alessandro Barbera, racconta: Equitalia va cambiata, deve essere oggettiva e flessibile. Ha presente la teoria delle finestre rotte, quella che applicò Rudolf Giuliani? Ecco, per Rossella Orlandi la lotta all'evasione è una questione di contesto. Convincere la gente a rispettare le regole funziona meglio della repressione. Nel 2006 uscivamo da un condono, i dati ci dicono che dopo i condoni la gente paga meno tasse, da allora siamo migliorati noi e sono migliorati gli strumenti, non si pensi sia tutto merito del computer, i dati non servono a nulla se non ci sono persone in grado di gestirli. Agli occhi del contribuente, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate, la riscossione passa da un estremo all'altro, può essere vessatoria oppure bloccata. Il Parlamento deciderà come procedere, ma il mio parere è che occorre più flessibilità. Se non si pagano le tasse, però c'è poco da discutere. Occorre trovare un modo per valutare meglio in modo oggettivo i singoli casi. Noi riscuotiamo per 1550 enti pubblici. La riforma non sarà semplice, non si potrà limitare a ritocchi. Cosa pensa quando sente dire che l'evasione da sopravvivenza è tollerabile? E qui il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Orlandi, sorride. Io ho una vita normale, abito in un condominio, ho una famiglia, un cane. Capisco il punto, però non ci si può difendere dalla legge violandola. Dobbiamo cambiare mentalità. Durante la mia esperienza all'Agenzia del Piemonte ho visto immigrati che in pochi anni hanno sviluppato grande senso civico verso questo paese. E la dichiarazione dei redditi precompilata funzionerà, secondo alcuni è solo un esperimento. Qualcuno credeva si potesse fare con uno schiocco di dita, risponde Orlandi. Nella dichiarazione di quest'anno i lavoratori dipendenti troveranno l'imponibile, gli immobili di proprietà, gli oneri previdenziali, quanto verrà detratto grazie a mutui e assicurazioni, mancano le spese mediche e veterinarie ed è fatta. Già oggi si registrano online la metà dei contratti di affitto, entro la fine dell'anno si potrà fare dal computer le dichiarazioni di successione e le volture catastali. La prossima frontiera della lotta all'evasione qual è? Ai miei funzionari dico sempre di concentrarci sulla grande evasione e le frodi fiscali, in particolare sull'IVA. Vabbè, racconta anche di altre cose, ma questo è il succo dell'intervista alla stampa di Alessandro Barbera al direttore dell'Agenzia delle Entrate. Al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. A proposito di politica internazionale, invece, ci sono tante pagine sul vertice del dialogo, così è stato definito, tra Merkel e Tsipras. Il premier greco dice: rispetteremo i patti, ma ovviamente staremo a vedere. La vera novità è che per ora sta in silenzio Varoufakis, incredibile, sono 3 giorni che non parla. Da qualche giorno, fa sapere anche Danilo Taino sul Corriere della Sera a pagina 13, Varoufakis è in silenzio, salta addirittura una tappa a Londra per trattare ancora, non va a parlare in un convegno, e per Varoufakis è abbastanza una novità. Tra l'altro Angela Merkel fa sapere: il contenzioso sulla Seconda Guerra Mondiale è chiuso, non c'è più niente da fare, abbiamo dato. Per la cronaca vi segnalo che si è consegnata la persona che, secondo gli inquirenti, ha causato l'incidente mortale per un ragazzo di 14 anni, poi non fermandosi dopo l'incidente. Lui si è consegnato dicendo: sono io, a 44 anni, ho manager, ha detto: ero in zona, passavo con un Audi Q5 grigia che state cercando, ma dopodiché il silenzio. e cioè giura di ignorare lo scontro e la carambola di veicoli innescata a sentire i molti testimoni da un suo mancato rispetto di precedenza. Insomma, dice, ero io alla guida da quelle parti, ma non ho causato la morte di questo ragazzo. È stato rilasciato ed è indagato a piede libero. Vi segnalo una straordinaria intervista di Selvaggia Lucarelli ad Alfonso Signorini, che fa un numero per i 20 anni di Chi speciale. Il direttore racconta il topless di Marina Berlusconi. Quando Marina mi chiamava diceva non pubblicare, non pubblicare, lei era contraria, io le spiegavo che tanto le avrebbe pubblicate qualcun altro, ma io sono l'editore. Sono stati 3 giorni d'inferno, lottai per le tette di Marina. E poi aggiunge Alfonso Signorini, vorrei farmi Fedez, vorrei, non è che ho un debole, me lo farei, ci ho provato in tutti i modi, ma nulla mi ha dato un 2 di picche dopo l'altro. Sa com'è, io in ste cose sono un uomo medio, vedo un pettorale, 2 tatuaggi e non capisco più niente. Questo è Alfonso Signorini intervistato da Selvaggia Lucarelli, è un'intervista piacevole, su Libero la trovate, pagina 17. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina del Messaggero dedicata a che cosa? Un compleanno, i 70 anni di Gatto Silvestro. Ma chi se ne frega!